Sedecia aveva 21 anni quando cominciò a regnare e regnò 11 anni in Gerusalemme. Il nome di sua madre era Camital, figlia di Geremia di Libna. Egli agì male agli occhi del Signore, secondo tutto ciò che aveva fatto Joiachim. Ciò avvenne in Gerusalemme e Giuda a causa dell'ira del Signore, fino al punto che egli le rigettò dalla sua presenza. Sedecia si ribellò contro il re di Babilonia. Or nell'anno nono del suo regno, nel mese decimo, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito, arrivò contro Gerusalemme e si accamparono contro di essa e la circondò con opere d'assedio tutto all'intorno. Così la città rimase assediata fino al 11° anno del regno di Sedecia. Nel mese quarto, il 9 del mese, la fame si impadronì della città e non ci fu cibo per il popolo del paese. Allora fu aperta una breccia nella città e tutti gli uomini di guerra fuggirono, uscendo dalla città di notte attraverso la porta tra i due muri che è presso il giardino del re, mentre i caldei circondavano la città all'intorno, e se ne andarono verso la Araba. Però le truppe dei caldei inseguirono il re e raggiunsero Sedecia nell'Araba di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse abbandonandolo. Presero il re e lo condussero in Ribla, nel territorio di Amat, al re di Babilonia, che istituì un giudizio contro di lui. Il re di Babilonia scannò i figli di Sedecia sotto i suoi occhi ed in Ribla scannò anche tutti i capi di Giuda. Poi il re di Babilonia accecò gli occhi di Sedecia, lo legò con catene, lo fece deportare in Babilonia e lo mise in prigione fino al giorno della sua morte. Nel mese quinto, il 10 del mese, cioè l'anno 19° del re Nabucodonosor, re di Babilonia, arrivò Nabuzaradan, capo della guardia, che stava alla presenza del re di Babilonia in Gerusalemme. Bruciò la casa del Signore e la casa del re e tutte le case di Gerusalemme, e bruciò con il fuoco tutte le case dei grandi. Indi tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo della guardia, abbatterono le mura attorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo della guardia, deportò parte dei poveri del popolo e il resto del popolo che era rimasto nella città e i disertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della folla. Parte dei poveri del paese, invece, Nabuzaradan, capo della guardia, li lasciò come vignaioli e contadini. I Caldei spezzarono le colonne di bronzo che erano nella casa del Signore, le basi e il mare di bronzo che era nella casa del Signore, e asportarono tutto il bronzo in Babilonia. Presero anche le caldaie, le palette, i coltelli, i bacini, le coppe e tutti gli utensili di bronzo di uso liturgico. Il capo della guardia prese pure i bicchieri, i braceri, i bacili, le caldaie, i candelabri, le coppe e i calici, quelli in oro e quelli in argento. Quanto alle due colonne, all'unico mare, ai 12 buoi di bronzo che stavano sotto di esso, alle basi, cose che fece il re Salomone per la casa del Signore, non si poteva pesare il bronzo di tutti questi utensili. L'altezza di ogni colonna era di 18 cubiti ed un filo di 12 cubiti poteva circondarla. Il suo spessore era di 4 dita, all'interno era vuota. Il capitello che la sormontava era di bronzo e l'altezza di un capitello era di 5 cubiti. Una rete e melograni stava attorno al capitello, il tutto di bronzo. E come questa era anche la seconda colonna con melograni. I melograni erano 96 pendenti. Il totale delle melograne era di 100 sulla rete all'intorno. Il capo della guardia prese anche Seraia, sacerdote capo, e Sefania, sacerdote in seconda, e 3 custodi della soglia. Inoltre dalla città prese un eunuco che era preposto agli uomini di guerra e 7 uomini tra i più familiari del re che furono trovati in città. Lo scriba capo dell'esercito che arruolava il popolo del paese e 60 uomini del popolo del paese trovati in mezzo alla città. Nabuzaradan, capo della guardia, li prese e li fece portare dal re di Babilonia in Ribla. Il re di Babilonia li fece battere e morire in Ribla, nel territorio di Hamat. Così fu deportato Giuda lontano dalla sua terra. Questo è il popolo che Nabucodonosor deportò nell'anno 7, 3023 giudei. Nell'anno 18 di Nabucodonosor, da Gerusalemme 832 persone. Nell'anno 23 di Nabucodonosor, Nabuzaradan, capo della guardia, deportò 745 giudei, in tutto 4600 persone. Nell'anno 37 della deportazione di Joachim, re di Giuda, nel 12° mese, il 25 del mese, Evil Merodac, re di Babilonia, nell'anno della sua intronizzazione, graziò Joachim, re di Giuda, e lo fece uscire dalla prigione. Parlò con lui con benignità e collocò il suo seggio al di sopra del seggio dei re che erano con lui in Babilonia. Mutò anche i vestiti della sua prigionia e Joachim mangiò il pane con lui per sempre, tutti i giorni della sua vita. Come suo sostentamento, gli fu dato un sostentamento continuo da parte del re di Babilonia con razione giornaliera, fino al giorno della sua morte, tutti i giorni della sua vita.